una stella tu, e nel cielo blu non c'è stella che brilli più di te. Stella, sei una stella tu, e nel cielo blu non c'è stella. The Star!